Sari Ngardo di Sifareoke lapok ni suara mi aleto sai maru sorido di Simaloloke kating ni rupang Arian pe dot si bonin pe bohim do sai sopong di mata ke